A Radio Città ti dico sono le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Attenzione! Urliamo insieme il nome, eh? Io vi mostro la busta. Vince la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Marco Mengoni! Marco Mengoni, ovazione sia, eccolo qua. Buon pomeriggio a voi, ben sintonizzati. Si sente la mia voce bolognese? Forte e chiara. No, perché ho fatto le ore piccolissime, un po' come tutti questi artisti, e quindi insomma sono un po' sottotono. Però buon pomeriggio a tutti voi, ben trovati e risintonizzati per la puntata numero 6 di domenica 12 febbraio 2023. Easy Pop parte adesso, musica indipendente e non solo. E quindi siamo qui per commentare il post Sanremo, post vittoria di meritata, a mio avviso, di Marco Mengoni, che è ritornato con questo pezzo che ha sbaragliato sicuramente un po' tutti. Quindi la sorpresa, se sorpresa doveva esserci, beh, insomma è stata un po' così. Non mi è sembrata una grande sorpresa. No, infatti sorpresa non è. Comunque vediamo Marco Mengoni al primo posto, secondo giunge Lazza, questa sì che è una sorpresa, perché quasi un semi sconosciuto al grande pubblico riesce così a guantare il secondo posto rispetto a nomi insomma ben più, come dire, ben più famosi e titolati come Anna Oxa, come Giorgia e tanti tanti altri. Quindi secondo Lazza, terzo Mr. Rain, è questo insomma un altro personaggio che appunto ha stupito ed è piaciuto, e devo dire forse questa è stata la sorpresa proprio più interessante, insomma, anche se poi artisti ce n'erano insomma che potevano così stupire, da Madame ad altri, però insomma sorprese non erano, e quindi complimenti. Il premio della critica di Mia Martini va comunque a Colapesce di Martino, che si aggiudicano anche il premio Sala Stampa Lucio Dalla. Il premio importante Sergio Bardotti per il miglior testo va invece a Coma Cose con L'addio. Invece il premio Giancarlo Bigazzi va a Marco Mengoni nuovamente con Due vite, appunto il pezzo presentato al Festival di Sanremo. Che dire, che è stato un Sanremo, come dire, pesante, nel senso 5 ore in cui, no, 5 settimane in cui praticamente si è sforato paurosamente. Io non ho mai visto dei festival così lunghi, che poi andavano avanti. Amadeus negli ultimi due anni ci aveva abituato dei festival. Sì, ma non così, da roba da praticamente ogni singola puntata alle 2 di notte, quindi insomma per Biasa Notte, ma si Bulagna, per Biasa Notte. E comunque io avrei giocato questa tripletta e ci ho preso Mengoni, Lazza, Mr. Rain. Ma l'ha giocata poi? No, niente. Non ho mai giocato. E allora? No, erano la mia tripletta finalista. Don figure, come si dice. Don figure. Ah, esatto. Ecco, comunque così. Sanremo ieri ha regalato una praticamente così una carrellata di emozioni con personaggi come appunto il ritorno dei Depeche Mode, ma anche Gino Paoli, addirittura Ornella Vanoni, e poi chi c'era ancora? Ce n'è stato di personaggi che veramente. Ornella Vanoni. La Vanoni certamente, l'ho citata, per poi insomma fare questa grande festa con praticamente il meglio della musica italiana. E cosa possiamo dire? Che è complesso, che festival ha visto Paoletti? Ma no, è stato un complesso secondo me vissuto, è come un calendoscopio, è stato vissuto dai giovani, dai ragazzi, da insomma i giovanotti come noi, oppure sì, gli anzianotti, livello generale è stato visto come da un dentro un caleidoscopio. Praticamente c'è chi l'ha vissuto più socialmente, quindi con i social, chi più televisivamente, chi attraverso la radio, chi attraverso insomma il sentito dire. Che dire, che è stato un livello complessivo. Allora, assai dispendioso, molto ritmato, perché comunque Amadeus arriva dalle radio e si è sentito, che dire, molto indovinato, un grande festone, se così vogliamo dire, in cui forse fa da padrona la TV e lo spettacolo, non certo la musica, che insomma sì, c'è il pretesto, ma è messa un po' kermesse. Esatto, è messa un po' sotto piano, perché poi abbiamo visto monologhi, abbiamo visto ospiti che con la musica c'entravano poco, quindi sì, con collegamenti improbabili, quindi alla fine tutto questo contorno forse annoiava, no, per chi appunto è interessato direttamente alla musica. Se era solo rispetto alla musica forse sì, però visto che è appunto uno spettacolo, forse no, ma non lo so. Comunque diciamo che noi stiamo imparando dagli americani quello che succede con gli Oscar, no? Quindi spettacolarizzazione al massimo dell'evento, e quindi ci metti dentro di tutto, compresa la pubblicità, ovviamente. Ma insomma, in generale, le è piaciuto nostro festival? Che ma le dirò, meno dello scorso anno. Oh, mi è stato meno emozionante, tirato fuori. Però diciamo che a livello d'ascolto ha premiato la Rai, perché insomma ha totalizzato 13.380.000 spettatori, che insomma non è poco, quindi complimenti, e devo dire che un lavoro in questo caso è ben riuscito, ma del resto è un lavoro che parte proprio da dopo il Festival di Sanremo in poi, quindi c'è tutto l'architettura che parte. Le sorprese ci sono state, perché bravi i cugini di campagna che sto ascoltando in sottofondo ora che ci sono arrivati dall'ufficio stampa, che ringraziamo ovviamente, ci hanno sorpreso, perché insomma ci aspettavamo tutt'altro, in realtà sono stati molto bravi a fare il loro, e che dire, poi a cambiare un po' registro, no? Adesso archiviamo Sanremo e archiviamo, ci si prepara, certo, per l'Eurovision Contest Song, dove in teoria dovrebbe andare male. Sì, allora io non ho ancora avvertenze ufficiali, quindi calda. Siamo ancora nel caldo, nel vivo, quindi di diritto dovrebbe esserci appunto il nostro Mengoni. Non sappiamo se io avrei visto più internazionalmente come suono Madame, per esempio, o Lazza. A me è piaciuto molto anche Lazza. O Lazza, insomma, qui poi si può discutere. Il risultato però è stato già sancito. Ascoltiamo. Perfetto. Un attimo, così prende fiato, si beve un goccio d'acqua, povero Paoletti. Vado a prendermi un caffè, perché se vuole leggere anche il preskit dei cugini di campagna, perché certo, lo faccio subito. Mi salta il petto come treni in corsa tra le nuvole, uno spazio alto come due uragani che distruggono, ma per dispetto credo anch'io che non puoi darmi il mondo se non guardi il mondo come lo guardo anch'io. Beh, Beh, è molto easy pop questo brano dei Cugini di Campagna. Assolutamente, assolutamente. I Cugini di Campagna sono stati forse precursori dei Maneskin, ovvero sia del glam rock, per quanto riguarda appunto la loro, così, il loro decennio, e comunque sono sempre stati a galla, vero? Con alti e bassi, però insomma sono stati bravissimi ancora a riproporsi in questa nuova veste, con una nuova pelle, ma del resto dietro c'è lo zampino di Pasquale Mammaro, l'uomo che a Sanremo con Il Volo e Diodato, insomma, e con Orietta Berti soprattutto e Donatella Rettore, ha dimostrato di avere l'intuito infallibile per azzeccare le canzoni, per dare il giusto valore, insomma, e la giusta canzone ai suoi artisti. Complimenti veramente. Adesso le faccio sentire un altro brano che ci hanno mandato sempre dagli uffici stampa in questi ultimi giorni. Sì, mentre volevo dire una cosa solo, che pochi sanno che questo è il terzo cantante in ordine cronologico dei Cugini di Campagna, pensante, perché bravo, in passato appunto ne hanno avuti altri due, è un po' come Mattia Bazzar, no? Che hanno cambiato vocalist, però soprattutto quello che non cambia è praticamente la zazza, come si dice? La pigliatura. Capigliatura che è voluta, bionda, la conciatura bionda, poi del resto questi hanno tutti dei crestoni ancora adesso, che con mia grande invidia, e che dire, complimenti a loro, ti favo per loro, qua mi espongo, lo dico. Bene, adesso invece viene a trovarci questo signore, dopo ce ne parla poi. Tremo quando son felice, perché tu non smetti mai di essere quella che mi dice pochi istanti e cambierai. La tua voce non convince, mentre ridi come stai. Non ti sembra di mentire a te stesso, come fai? E vorrei risponderti col sorriso sopra i denti, che se rido è solo a tratti, perché vivo i miei momenti, quelli unici e importanti, senza chiedere ai presenti se si siano accorti in tanti del sorriso e dei miei denti, ma non so risponderti. Ora io non so risponderti, what can I say? Piango quando son felice, perché trattenersi mai? Forse c'è chi si confonde e non sa che parte fai. E se c'è chi si confonde mentre ridi tu, vorrei risponderti con le lacrime negli occhi, che se piango è solo a tratti, perché vivo i miei momenti, quelli unici e importanti, senza chiedere ai presenti se si siano accorti in tanti delle perle dei miei occhi, ma non so risponderti, perché a te sembra strano, tutto questo sembra strano. Massimo Ranieri col suo nuovo singolo È davvero così strano, Massimo Ranieri che abbiamo visto in un trio composto da Gianni Morandi e Albano appunto al Festival di Sanremo. Eh sì, questi mostri appunto della musica italiana, ormai sono dei monumenti della nostra musica, hanno veramente dato una lezione ai nuovi giovani, insomma, che hanno così aperto e sono saliti sul palcoscenico e hanno appunto ha preso una lezione proprio di vero canto, di che cosa poi un cantante debba lasciare in eredità appunto al proprio paese. Devo dire che non ha sfigurato appunto Massimo Ranieri insieme a Morandi e ovviamente ad Albano, che insomma ancora adesso, tanto di cappello, riescono a tenere così bene il palco. La musica, le dirò, e le parole di questa canzone che abbiamo in sottofondo sono di Giuliano Sangiorgi, che praticamente ha scritto questo pezzo, che si intitola È davvero così, per praticamente per l'album Tutti sogni ancora in volo, di cui ha parlato appunto lo stesso Massimo Ranieri appunto durante la sua serata, perché insomma c'è stata la serata appunto dei così detti vecchi, no? Ma insomma non si dice così. Giovani, signor. Però così. Bene, cosa abbiamo ancora adesso sul piatto? Un cambio di passo, sì. Con Enter Shikari, It Hurts. Cambio di passo. Shikari con It Hurts, abbiamo operato un deciso cambio di passo e diciamo così ci siamo lasciati alle spalle il Festival di Sanremo. Dico bene, Paoletti? Siamo entrati nel vivo di Easy Pop. Sì. Di questa puntata numero 6 di domenica 12 febbraio. Già, è proprio così. Pensi un po' che nella primavera 2022 la band che abbiamo ancora in sottofondo è scesa nella città costiera di Grinchester in una fattoria fatiscente, ha ricostruito il proprio studio di registrazione per catturare un suono particolare. Cercavano proprio questo suono innovativo e hanno trovato l'energia in questa ex fattoria, che ha secondo loro un'energia particolare, una luce particolare, un sole particolare, quindi un'energia, hanno cercato questa luce, sì, in un certo senso sì, e hanno è il momento del misticismo, evidentemente. Sì, Anna Oxa, sì, certo, questa ricerca del misticismo, ma che bello, no? Bisogna ripiegarsi in se stessi per qualcosa di più alto, va bene, prendiamo atto che è così. Bene, di che si parla adesso, regia? Ancora il festival? No. No. Brano. Perché se no, appunto, avevamo parlato direttore prima, no? Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale. Io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto, e avrai una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, oh, è splendido, splendente. Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina il sorridente, è padrone, già si sente. Perdo i sensi lentamente come tra le braccia di un amante. È splendido, splendente. Splendido, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Oh. Siccome sono, si vedrà. Uomo, donna, senza età, senza sesso, crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante. Faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente, tutto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, splendente. Mosaico, questi ragazzi si chiamano Mosaico e cosa cantano ce ne parla Paoletti. Ovviamente splendido splendente, i Mosaico sono un gruppo pop rock composto da quattro elementi che si sono incrociati diciamo nel 2019, hanno tra i 20 e i 23 anni e si sono avvicinati a queste sonorità rock vintage, così li hanno voluto rilanciarle in chiave un po' più così rimodernate, riadattate. È vero, insomma, un po' così riadattate, anche più velocizzate, e quindi stanno praticamente uscendo con dei singoli. Questo è il loro quarto singolo, se non sbaglio, no, quattro singoli sono usciti dal loro inizio, fondazione del gruppo, quindi sono aggiunti fino a questa nuova uscita discografica, riportando in auge appunto il classico del pop italiano, ovvero sia quello di Donatella Rettore, quindi hanno dato, diciamo, uno smalto in più a questo brano che già di per sé è un classico ed è difficile sbagliarlo, no? Giustamente interpretarlo male, insomma, è quasi, diciamo, si può sempre, se non è capace, si può sempre, ma diciamo che è quasi un'eresia, quindi diciamo non suonare bene questo pezzo vuol dire vai a casa, secondo me è un'eresia, esatto. Ha dato vita quindi a questo percorso creativo, soprattutto questa voglia di anni 70-80, e il gruppo ha saputo, insomma, diventare ancora più coeso e a questo punto dà, diciamo, il piccolo circuito regionale il suo successo lo sta portando un po' in tutta Italia. Sono un po' come quei gruppi, no, che rifanno un po' la musica rock dagli anni 60 ad oggi, e devo dire mettono un'allegria non da poco. Ah, e poi ci si diverte. Il tempo corre e adesso mi corre l'obbligo di dirle che c'è il nuovo brano che incombe. Ascoltiamolo allora, chi lo è? Lo annunci lei. Mi sono perso, cos'è? Lei si è perso, mi ricorda la mietta che si era persa. Sì, a Milano. Frame con Almeno un bacio. Una tanto che passa, ed è già lunedì, estate quanto mi manca, star dietro a quelle luci, tu sì, che mi fai stare bene in freddo, ma bruci, bruci, sei quella fiamma che non si spegnerà mai. Poi ti sogno. Ah, ah, ah, ah. Mi hai detto la tipa sbagliata che caldo fa, quando sono vicino a lei con quella tutina tutta scollata, il mio cuore è andato in reset, solo con te la tipa sbagliata. Dammi almeno un bacio questa notte, quel profumo mi ricorda te. Ti ho già dato il cuore milioni di volte, con lei c'entro tipo NBA. Prima tappo giù da mesi, ho detto mi devo dare un giro, superare i problemi, conta gli amici veri sulla punta di un ago, vedi che da mille ora sono in dieci, lei la cerco da un paio di mesi, ma non eri la tipa sbagliata, baby. E dopo, poi dopo, dopo un altro shot, mi hai dato il tuo Insta, tu scrivi in chat. E dopo, poi dopo, dopo un altro drink, mi hai detto non andare via, resta qui, non dirmi più nada. So che eri la tipa sbagliata, che caldo fa, quando sono vicino a lei con quella tutina tutta scollata, il mio cuore è andato in reset, solo con te la tipa sbagliata. Dammi almeno un bacio questa notte, quel profumo mi ricorda te. Ti ho già dato il cuore milioni di volte, con lei c'entro tipo NBA. Beh, diciamo un suono molto urban, come va di moda adesso, devo dire, un ottimo lavoro per Matteo Pavan, che è giovanissimo. In arte si chiama Frame, giovane cantante che arriva dalla provincia di Torino. E lui praticamente ha iniziato a cantare quasi per scherzo quando era appunto chiuso in lockdown con i suoi mezzi, piccoli mezzi, è riuscito ad attirare l'attenzione di un'etichetta discografica che lo ha licenziato, lo ha distribuito con il primo singolo intitolato Mille Volte. Dopodiché cosa è successo? Che ha ottenuto un certo successo, ha firmato anche con un'altra etichetta e da lì in poi è partito insomma un secondo singolo che ha avuto dei vantaggi praticamente su vari social, e poi è successo che appunto è uscito con questo singolo e da qui in poi sembra stia partendo insomma la sua carriera discografica. Che dire, complimenti a lui, è bravo, bravo, bravo Frame. Siamo all'ultimo brano di questa prima parte di questa sesta puntata di domenica 12 febbraio 2023 sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 di Bologna. Siete all'ascolto di J-Pop. Chi ultimo abbiamo? Brano della prima parte, Paoletti. Sì, allora abbiamo Andrea Roccia adesso, bravo, che ci presenta Non è facile. Intrappolato dai ricordi, da quelle sfide che la vita mi ha lasciato, quei sentimenti anche con gli anni, l'amore che ho vissuto un giorno credo sia cristallizzato. Eppure nonostante tutto mi hai lasciato un vuoto dentro, e sembrava tutto grigio, il mondo invece era perfetto. Troppe cicatrici aperte, risanato ormai dal tempo, e idealizzavo in te me stesso. Sai, volevo scriverti ma non è facile, ti accarezzava il vento sulle palpebre, vedevo il sole rosso proprio come te, lo sai non so perdere. Intrappolato dai ricordi, da quei momenti che solo noi conosciamo, ti prego non dimenticarti. New York sembrava anche più bella, noi due mano nella mano, eppure nonostante tutto ho sentito un vuoto dentro, e sembrava tutto il mondo grigio e non era imperfetto. Troppe cicatrici aperte, risanato ormai dal tempo. Volevo scriverti ma non è facile, ti accarezzava il vento sulle palpebre, vedevo il sole rosso proprio come te, lo sai non so perdere. eccoci qua. Allora, abbiamo anche ascoltato questo nuovo personaggio che è un ragazzo dalle possibilità interessanti. Non è facile il suo primo singolo di questo cantautore musicista cuneese, Andrea Roccia, e diciamo che lui ha soli 21 anni e vive in un paese della provincia di Cuneo, ma ciò non gli ha impedito di registrare un tempo addietro un'esibizione, That's Life di Frank Sinatra, e viene così, così intercettato dagli addetti ai lavori che gli hanno proposto un singolo, e questo è il primo singolo che è a essere messo sotto contratto. Che dire, che di voci interessanti ce ne sono, li abbiamo visti anche al Festival di Sanremo. Io ho scoperto per esempio tra i giovani, perché poi c'era anche questa mescolanza di giovani e gli interpreti big insieme, perché la gara era appunto fatta insieme. Devo dire che ultimo è arrivato Sei Tu, ed era tra i giovani, poi è arrivata una certa Shari, 27esima. Io tifo per lei perché lei adesso sembrerebbe stia con un personaggio molto famoso del rap, e non dico altro. Shari viene da Monfalcone e devo dire che si era ben messa in luce recentemente su vari canali e soprattutto in un talent, non dico quale. L'orario, Paoletti, così. E poi sì, facciamo come Sanremo, andiamo, sforiamo. Io vado a segnalarvi invece Gian Maria, che è arrivato 21esimo, quindi sotto i Cugini di Campagna, quindi forse c'è speranza per lui. Che dire, è arrivato sotto i Cugini di Campagna, però sopra Anna Oxa, quindi forza, tieni duro Gian Maria, c'è speranza anche per te. Io lancio la pubblicità. Dopo ciò, pubblicità, rientriamo fra pochissimo. Potremmo parlarvi dei materiali ricercati e durevoli, della linea e della forma dei nostri arredamenti, ma preferiamo raccontarvi come ci piace rendere la vostra casa unica e disegnata intorno a voi. Bertocchi Arredamenti, una grande passione per l'arredo dal 1964. Personalizziamo ogni vostro ambiente con falegnameria interna per adattare ogni arredo ai vostri spazi, con assistenza post vendita sempre presente e con i migliori brand nazionali come Stosa e Moretti Compact. Bertocchi Arredamenti è in via dell'Intagliatore 15 a Bologna e su bertocchiarredamenti.com. Bertocchi, ogni mobile, una storia. La rivoluzione digitale è arrivata. Da quest'anno è ancora più semplice iscriversi all'ARCI. Scarica la nuova app, scegli il tuo circolo o la tua associazione e ottieni subito la tessera digitale per restare aggiornato sulle iniziative della tua città e scoprire tutti i circoli su una comoda mappa. Non solo, con l'app ARCI avrai anche a portata di click tutti gli sconti e riduzioni riservati ai soci ARCI nei cinema, teatri, musei e locali convenzionati. Scarica la nuova app dell'ARCI dagli store iOS e Android. È gratuito. Quest'anno salta le file e associati subito. A Bologna ci sono più di 800 pizzerie, creative, gourmet, da asporto. Ma se io volessi provare il sapore di una pizza tipica napoletana? Te lo dico io, se vuoi gustare la pizza napoletana verace, c'è Donna Margherita, in via Lombardia 13C, nel quartiere Savena. E la pizza com'è? Ma stai pazziando, pizzaioli napoletani, forno a legna, ricetta tradizionale e materie prime campane. E non solo questo, ma di Napoli trovi anche l'atmosfera, sempre allegra, che mette buon umore. Wow, mi sta venendo voglia. E allora yam, ya, Donna Margherita è aperta anche per asporto e domicilio. Cerca Pizzeria Donna Margherita sui social oppure chiamalo 051 54 4422. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ed eccoci qua, siamo rientrati di fatto in quella che è la seconda parte di Easy Pop, qui dalle frequenze dei 103 e 100 modulazioni di frequenza Radio Città Fujiko. Chi vi parla è Franco Paoletti, al di là del vetro ovviamente. Il bolognese volante che parla. Allora, parli adesso mai più. Chi abbiamo sul piatto numero uno per aprire questa seconda parte? È sul piatto numero due. A due, ho visto male, va bene. Piatto due. Chi abbiamo? Bracco di Graci. Ah, è ritornato anche lui, fu per due anni di seguito grande protagonista delle nuove proposte per quanto riguarda appunto il Festival di Sanremo, tanti anni fa. Ritorna alla musica e ci ha spiegato come all'interno del nostro spin-off di Easy Pop. O rubrica di approfondimento. O rubrica di approfondimento per quanto riguarda la sua biografia. Quindi Bracco di Graci, ovvero sia Domenico di Graci, per appunto gli amici. Dunque, che dire, un curriculum incredibile. Quello che noi però andiamo ad ascoltare è il suo ultimo singolo, si intitola Regia, si intitola Così è la vita. Bracco di Graci. In quelle sere senza impegni, quando ti siedi a volte sogni, sono più evidenti i segni dentro te. E cerchi tra le convinzioni quelle possibili ragioni, ma niente sembra poi convincere. Non vuoi la colpa di ogni cosa, ti chiudi sempre in quella scusa, che tanto poi il destino fa come vuole lui, fa come vuole lui. Per ogni analisi sbagliata, per ogni scelta non curata, ci sarà sempre molta vita che non ti sarà scontata. C'è bisogno, sai, di interrogarsi, perché è facile sbagliarsi e fare pace con se stessi, volersi bene a tutti i costi, rialzarsi sempre quando cadi. Siamo un po' tutti come Rocky. Così è la vita. Non basterà che ci si impegni per non sentirsi spesso soli. Puoi soffocare i tuoi dolori, ma non vincerli. Diventerà una convivenza che non potrai più farne senza, ma ti ci abituerai e la gestirai. Per ogni scelta non curata, per ogni analisi sbagliata, ah, eccolo qua, vincitore già del Festival di Castrocaro con Vivo, Muoio e Vivo, e poi nel 92 primo Sanremo per lui con Datemi per favore, seguito al secondo nel 93 con Guardia o ladro, e poi arriva anche appunto il Cantagiro, se non sbaglio, e poi insomma tante soddisfazioni nella sua carriera. Arriva appunto questo nuovo singolo, ma attenzione perché a breve uscirà appunto un secondo singolo e poi attendiamo l'album che è già annunciato. Detto ciò, abbiamo regia, cosa abbiamo a questo punto? Faccio partire. Sì, faccia partire il prossimo. Piatto numero uno. Perfetto. Darman. È rifugio. La sua rifugio. Dopo ne parliamo. Certo. Un tuffo all'ingiù. L'acqua sia profonda o meno, non importa tanto su che ci sei tu. Una paura in più, da mandare via con una poesia dedicata solo a te. Guardare guardare il mondo con gli stessi occhi con cui lo vedete voi. Una vita in più per non perdere anche un istante da passare lì insieme a voi. Mi manca Darman, di cui tra poco ci parlerà un attimo Paoletti, partecipa al progetto Itaca e sarà ospite domani appunto nella sede del club Itaca a Bologna dopo pranzo per un evento live. Un personaggio che conosciamo, che comunque nuota nel mondo indipendente da tanto tempo, un cantautore intelligente che fa appunto del suo mestiere anche l'impegno non solo per appunto opere benefiche ma anche politiche e quant'altro. Dunque l'abbiamo visto poi qui, benefico in questo caso, l'abbiamo visto anche nel 2012 se non sbaglio qui a Bologna per il concerto del 1° maggio, ma insomma sono tanti le sue apparizioni, magari noi distratti lo prendiamo come uno dei tanti, in realtà è un giovane cantautore che va ascoltato perché ha delle cose davvero interessanti che propone, tant'è vero che questo progetto lo porterà al club Progetto Itaca appunto per la prima appunto per il supporto e la riabilitazione delle persone affette da disturbi della salute mentale e appunto supporto anche le loro famiglie. Suonerà per loro dal vivo e devo dire che la sua vena cantautoriale è incredibile, è un po' una musica tra rock e il country ma veramente spettacolare, quindi un appuntamento che vi consigliamo assolutamente. E vi consigliamo di ascoltare l'intervista che Darman ha concesso a Franco Paoletti e potete trovarla sul sito della radio www.radiocittafugico.it nella cartellina musica. Troverete l'intervista che Darman ha rilasciato a Franco Paoletti. Sì, proprio un approfondimento vero e proprio per conoscere meglio quest'artista. A questo punto, regia, dopo aver dato voce anche a Darman, abbiamo il brano che avevamo ascoltato, era Rifugio, ma siamo in attesa del nuovo singolo estratto da un album. Faccio partire il piatto numero 2, Paoletti. Piatto numero 2, abbiamo quelli, i calibro certo. 40 ritornano con un brano che così è un inno agli anni 90, infatti si intitola Anni 90. Oh, eccolo. Torna indietro negli anni con me, mami, perché in un attimo è già domani. Fermiamo le lancette su quelle scalette persi tra le stelle. Appuntamento senza lo smartphone, ora che lui è a controllare il tempo. Il cuore a mille dopo lo squilla, il nostro unico social network. Bambina tu che ne sai, ragazzi in strada con il booster e non a casa col wifi. Al massimo col Sega Mega Drive, ehi ehi. Amore mio, bastavano soltanto 50.000 lire per ribaltare il mondo, lo sai che voglio dire che noi avevamo tutto. Tira fuori la cassetta bambina, dallo zaino Invicta quando arriva la nostra canzone preferita, registriamola. Poi smontiamo l'autoradio dalla macchina. Ma tu che ne sai, degli anni 90, l'amo viola in TV, il festival bar, il rap che canta. Ma tu che ne sai, degli anni 90, la Moviola in TV, Festival Bar, le rap che canta, la malinconia che mi porta via, con la testa segui la mia scia, anche se era poco per noi era oro, guerre liquide, ricordi il bip bip di continuo che arrivava dalla tasca, non era mica la notifica WhatsApp, ma il Tamagotchi che chiamava, che vita la vita negli anni 90 però, che bello anche senza playlist su Spotify, ballavamo al jukebox, anche senza le serie, le sere tra amici ed i film di blockbuster, che bello era, una storia vera, una storia vera, ma tu che ne sai? Degli anni 90, la Moviola in TV, il Festival Bar, il rap che canta, ma tu che ne sai? Degli anni 90, la Moviola in TV, il Festival Bar, il rap che canta, ma tu che ne sai? Io ne so e mi è scesa una lacrimuccia a pensare agli anni 90, Paoletti, glielo dico proprio onestamente, come quelle di Mr. Rain. Ma diciamo che questo festival festival parla anche del Festival Bar, sentito? Sì, ho sentito. So che lei lo adora e lo riecheggia sempre, ma c'è sempre fuori. Comunque, non voglio sapere, diciamo che questo festival è stato anche il festival degli anni 90, perché dopo Paola e Chiara, lei li ha viste almeno. Ho visto tutto molto di sfuggita dopo. Ho capito. Poi c'è stata questa altra reunion appunto in questo Sanremo, quello di un gruppo anni 90, alter ego forse degli 883, ovvero sia gli Articolo 31 con J-Ax e DJ Jag, che sono appunto ritornati dopo una separazione insomma di tanti anni, e comunque insomma il progetto era già nell'aria, e insomma c'è stata questa piccola lacrimuccia che è scesa, perché a ricordare appunto questa cosa qui. Quindi sicuramente stato un evento. Bisogna guardare avanti. Ma noi guardiamo sempre avanti, e abbiamo tra praticamente le uscite discografiche appunto che abbiamo in campo provato, internazionale, Paoletti. Abbiamo i Finite Galaxy, scritto Finite Galaxy. Bravo. Ecco, sì, lei legga come scritto, non Finite, mai. Come sarebbe in inglese? Lei so. Non lo sa, non lo sappiamo, non siamo sappiamo più un corso d'inglese. Prendete appuntamento se qualcuno appunto sa come si pronuncia. Scriva al 333-180-9494. È scritto Finite Galaxy. You are the one. E questo lo sa dire, però, il solo, sì, bello, bello. Sophisticated music. Brighter than every other star in the sky, we have come together forever, or at least a lifetime. We strong, these cores that bind us together, we never could be undone. Yeah, we are Shiva and Shakti, making cosmic movement in unison. Our union is perfect music. Some say our love is forbidden, but what wouldn't we do for love when bliss and ecstasy come together? Get the two of us. Yeah, this is yin and yang, it's a simple thing. Put your phone on silent and never minding it when it rings. Your voice is louder than the thunder and lightning when it rains. I'm climbing higher than Everest on your terrain. The way you're moving cuts right through. Me Infinite Galaxy con You Are The One. Come ho già detto più volte, sui nomi sia di cose, di persone, cognomi, in inglese è sempre meglio essere prudenti, perché ci addentriamo in un ginepraio di possibili differenti pronunce, per cui li pronunciamo come sono scritti, così non sbagliamo. Beh, poi ci sono le nostre playlist che aiutano se qualcuno appunto volesse prendere degli appunti o volesse essere preciso, lì saremmo veramente precisi. You Are The One, il singolo appunto the soul hip hop, così insomma trip hop, dei Finite Galaxy, che è praticamente è un duo rap bilingue con sede in Oklahoma e che mescola inglese e indie con una miscela di voci e armonie delicate insieme a fiati anche a sitar. Quindi questo nel loro album è proprio diciamo la punta di diamante, però ci sono anche dei pezzi insomma un po' particolari, quindi vi abbiamo avvertito per questo gruppo molto interessante da scoprire per chi insomma vuole anche trovare anche nuove sonorità. Insomma, noi spaziamo anche perché adesso ci sono delle radio, no, che praticamente sono specializzate in un certo target, sempre più tagliuzzate, indirizzate verso qualcosa d'altro, quindi segmentate. Noi siamo molto ad ampio raggio. Esatto, noi cerchiamo di essere, insomma, di accontentare un po' tutti, di aprirsi, però insomma tante sonorità, però insomma. Adesso abbiamo una, diciamo così, favorita di un nostro ufficio stampa, nella fattispecie David Bonato. Ah sì, viene a trovarci una ragazza, una sua pupilla. Sì sì, ma viene a trovarci una ragazza che seppur giovanissima ha già una sua piccola storia interessante. Ve ne parlo adesso o ve ne parlo dopo? Facciamo partire il piatto numero due. Ascoltiamo il brano, perfetto. Come si intitola? Ci parla. Allora, viene a trovarci Talea e ci presenta Sconnessi. Personaggio davvero interessante, si chiama Talea, ovvero sia Cecilia 40, nasce a Sesto San Giovanni e nel 98 si trasferisce a Iesi, dove lì praticamente comincia poi praticamente ad assaporare le prime canzoni di Joan Baez, Johnny Mitchell, che sono per lei delle muse, diciamo. Poi cosa succede? Lei si trasferisce per un breve periodo in Scozia, se non sbaglio, impara bene l'inglese, poi arriva appunto un suo primo EP. Nel settembre 2020 vince così una borsa di studio presso il CET, il maestro, insomma la scuola del maestro Mogol, e da lì praticamente arriva un piccolo contratto discografico con la Avrec. Nel 2021 pubblica appunto il suo EP che aveva già presentato un po' in giro. Sono stati estratti il video Song in the Dark e Heading. E poi Reading Home, scusate. A settembre nel 2022 invece pubblica la cover dei CCCP Amandoti sotto la produzione di Flavio Ferri, che lei mi chiederà chi è. No, no, io non glielo chiedo. Vabbè, non mi azzardo nemmeno a chiedere. Un mezzo dei Delta V. Ci penso proprio. I Delta V, praticamente. E poi è protagonista anche di X Factor 2022. E poi piano piano, insomma, da lì comincia, insomma, a ruotare bene per lei la fortuna. Detto ciò, noi seguiremo veramente da vicino questa voce particolarissima di Thalea. Che c'è da dire ancora, regia? Annunciamo il penultimo brano di questa seconda parte. Siamo già addirittura d'arrivo. Siamo anche un po' in ritardo. Perché si è attardato, ma qui non siamo a Sanremo, noi abbiamo un palinsesto da rispettare. Certo. E quindi adesso abbiamo Serena Skintu tra le migliori leggende. Dopo Paoletti ce ne parlerà. Assolutamente, però sì. Bravo, certo. Paoletti. È passato più tempo di ciò che pensassi. Musica nella mia testa, sempre più nuova e diversa. Ho imparato a disegnare giorni, archiviando i tuoi quaderni. Sarò la carezza in ogni amarezza e di ogni dubbio o certezza. E tu che diventi dal sole ogni giorno più grande, sei la storia più bella tra le migliori leggende. Con le tue facce strane, voglio bene, illumini tutti i miei giorni coi tuoi sorrisi speciali. Adesso che sei più grande, riempio ancora ogni istante. Come il cielo è pieno di stelle, ma nei tuoi occhi le più belle. Ho imparato a non contare i giorni, a riscaldare gli inverni. Sarò la carezza in ogni amarezza e di ogni dubbio o certezza. E tu che diventi dal sole ogni giorno più grande, sei la storia più bella tra le migliori leggende. Con le tue facce strane, quanto ti voglio bene. Illumini tutti i miei giorni coi tuoi sorrisi speciali. Tu che sposti i confini, anche quelli lontani, ricordati dentro il mio amore rimani. Non c'è posto più sicuro nell'emisfero terrestre, se non dentro al cuore profondo di madre. E tu che diventi dal sole ogni giorno più grande, sei la storia più bella tra le migliori leggende. Con le tue facce strane, quanto ti voglio bene. Illumini tutti i miei giorni coi tuoi sorrisi speciali. Serena Skintu, cantautrice di origine sarda, inizia a muovere i primi passi nella musica fin da piccola e poi la sua produzione musicale inizia nel 2017 con il primo album dal titolo Ghiaccio. Poi piano piano prosegue nel 2021 con un secondo album intitolato Miliardi di Stelle. E quest'ultimo è stato scritto interamente da lei. E poi grazie alla rete, su YouTube, i suoi video ricevono migliaia di visualizzazioni. Tant'è vero che adesso Serena è conosciuta tantissimo all'estero grazie soprattutto alla rete. La sua voce è conosciutissima appunto in tutta l'Unione Europea, dicevo, ed è praticamente sempre in costante crescita per quanto la riguarda, anche perché canta in inglese. Che dire, che la rete veramente tante volte aiuta molto più di un passaggio televisivo e ce ne siamo accorti. Siamo in super ritardo, Paoletti, dobbiamo andare con l'ultimo brano di oggi. Ah, allora, di un suo prediletto. Certo, una voce molto interessante che viene dalla Sicilia. L'abbiamo già suonato diverse volte. Sto parlando di Giuseppe Cucè. È appena uscito il suo nuovo singolo, si intitola La mia dea.